Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. E va bene, iniziamo così questa mattina, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Buona giornata da Simone Spezia, puntata speciale di Voto Antonio oggi, puntata quirinalizia naturalmente, nella quale come ovvio non rinunceremo ai nostri temi soliti, ossia parlare di rete e di rapporti con la politica. Se persino il direttore della Repubblica oggi, Ezio Mauro, parlando delle spiegazioni che hanno portato alla caduta prima di Marini prima e di Prodi poi, parla di ribellione, mancanza di guida, dipendenza dal flusso dei tweet più che da qualche corrente di pensiero. E mentre il candidato alla presidenza della Repubblica, il Movimento 5 Stelle, il professor Rodotà, sempre intervistato dalla Repubblica, dice che il suo nome girava, era stato molto appoggiato, e questo poi ha determinato la reazione della rete, che mi ha fatto arrivare tra i primi alle Quirinarie. Ma che cos'è questa rete? Ma che cosa vuol dire? Insomma, non stupisco che un esimio professore molto attento e che molto ha studiato queste cose come Rodotà parli genericamente di rete. Tutti i temi naturalmente da approfondire, che avremo modo di approfondire non solo in questa puntata ma anche nelle prossime edizioni. Vi ricordo i nostri contatti, potete scrivermi, Simone Spezia, mi trovate su Twitter, oppure c'è la nostra pagina Facebook Vota Antonio R24. Naturalmente questi contatti, se volete interagire anche in corso di trasmissione. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Eccoci qua, come sempre, in questa seconda parte della trasmissione è il momento di raccontare la settimana. Forse racconteremo quasi solo una giornata, la giornata di ieri, è il momento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Ecco, la musica è finita. Gli amici se ne vanno. Che inutile serata. Caro Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come hai sentito, ti ho accolto con Franco Califano. Così, insomma, mi sembra assai adatta a quello che è successo tra l'altro ieri e ieri, no? Sì, direi proprio di sì. Senti, che mi dici? Che impressione hai avuto da questi due giorni? Devastante, no? Un disastro. Sai, l'impressione è che il nostro è un sistema politico sostanzialmente fallito, no? Ce lo diciamo da anni si dice le riforme, nessuna riforma, nessun rinnovamento reale, piccoli dettagli, ma niente di sostanziale. E alla fine questa paralisi del sistema politico che si è manifestata sul piano del governo, delle decisioni mai prese, si è poi riversata in maniera drammatica, complice una serie di circostanze, si è riversata sul piano istituzionale. Noi ieri abbiamo assistito al trasferimento della paralisi politica sul piano della decisione che invece è la più importante, perché oggi il capo dello Stato è quello che poi da solo manda avanti il sistema, che da solo copre tutte le pecche, tutto ciò che non va. Ecco, e ieri però il sistema si è dimostrato incapace di arrivare a una decisione sul capo dello Stato, e su questo è imploso il Partito Democratico, il partito di maggioranza relativa, perché ha pagato il prezzo di infinita ambiguità e di troppe contraddizioni e del fatto di essere diviso al suo interno tra diverse anime sostanzialmente incomponibili. Diviso al suo interno, ma anche, insomma, anche condotto una strategia che molti definiscono suicida, anzi forse ha pesato l'assenza di strategia e anche l'assenza di tattica, insomma nessuna delle due. L'assenza di strategia o di tattica è figlia dell'ambiguità di fondo, quando una formazione politica è stata costruita mettendo da parte tutto ciò che in realtà erano elementi paralizzanti, cercando di raccontarsi un film che non era vero, e la dimostrazione tu l'hai avuta negli anni. Questo è un partito che non è mai riuscito a diventare quello che avrebbe dovuto essere nell'intuizione di Prodi, perché Prodi fu l'inventore di un'idea, l'ispiratore di un'idea che poteva avere un grande senso politico, no? Creare una grande forza progressista capace di allargarsi al centro, capace di prendere una vasta platea di elettori. Questa cosa non ha funzionato, si è rattrappiti su un partito che ha cercato di coltivare l'esistente, diciamo, e alla fine lo vedi, i risultati elettorali sono sempre stati piuttosto deludenti, non si è mai andati al di là di quel 28-30-31%, 33 con Veltroni, che comunque è troppo poco per governare il paese. Queste sono le ragioni di fondo, poi da queste sono venute i deficit di strategia o di tattica, ma al fondo c'è un nodo politico che non è stato risolto. La grande domanda adesso, allora naturalmente la grande domanda, quella immediata, è sul Quirinale, un'idea di come andrà a finire, ma tra un attimo ne parleremo. L'altra grande domanda di fondo è come andrà a finire il Partito Democratico, Stefano, perché... Io non lo so come andrà a finire il Partito Democratico, perché a questo punto... Stefano, sono illeggibili in questo momento, non si riesce a capire dove finiranno. No, secondo me no, ma in ogni caso non mi interessa neanche troppo in questo momento, perché è chiaro che è finita una storia e dovrà cominciarne un'altra, dovranno venire altri gruppi dirigenti, ma probabilmente una prospettiva politica molto diversa, non lo so, ti dico la verità, in questo momento non mi pongo neanche la domanda, perché in questo momento bisogna dare un presidente al paese, questa è la cosa principale, trovare il modo di eleggere rapidamente un presidente della Repubblica, perché non è più il tempo in cui la Democrazia Cristiana si dilaniava sul Quirinale, no, negli anni 60-70, ma poi tutto sommato il sistema reggeva, perché la DC aveva delle radici molto più solide, e adesso noi non ci possiamo permettere lo spettacolo che va in onda tutti i giorni. Stamattina, tra poco, comincerà questo diluvio di schede bianche di nuovo, con il solo Rodotà che viene votato e tutti gli altri fanno scheda bianca. È uno spettacolo indecoroso, diciamo necessitato dalla situazione di paralisi, ma indecoroso, e non ce lo possiamo permettere. Sì, notizia di stamattina, ve l'ha raccontata anche il giornale radio, un uomo, un pensionato, si è dato fuoco in Calabria davanti ad un supermercato, a quanto pare per problemi economici, ma basta, stando proprio ai dati, perché poi sui suicidi possiamo fare mille ragionamenti, ci sono mille altre motivazioni, i dati di oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore, in 3 mesi record di aziende chiuse, il saldo è meno 31.000 tra aperture e cessazioni nel primo trimestre di quest'anno, anche più alto rispetto al 2009, che pure fu un anno piuttosto duro. E quindi sì, insomma, no, bisogna scegliere, bisogna arrivarne ad una, no? Ma non c'è dubbio, io vedo due soluzioni. Una che oggettivamente oggi è più debole, e cioè che i partiti, quelli disposti a mettersi, diciamo, intorno a un tavolo, decidano per un presidente condiviso. Quindi un presidente ancora politico, un presidente che abbia un alto profilo politico, che sappia stare sulla scena internazionale, che sappia stare in Europa. Ecco, un personaggio del genere può venire soltanto da una condivisione di una larga platea parlamentare, e questa è una soluzione. L'altra soluzione è una scelta istituzionale, quindi non si pensa all'Europa, non si pensa al quadro internazionale, si pensa a nominare un personaggio delle istituzioni, adesso dico per dire, può essere il Presidente della Corte Costituzionale, diciamo che idealmente questo personaggio doveva essere un Giorgio Napolitano che avesse accettato la rielezione, non è così, Napolitano non l'accetta, quindi il discorso non si pone, ma idealmente dovrebbe essere un personaggio di questo genere che permette di chiudere la partita. Naturalmente so che c'è una terza soluzione, se ne parla tantissimo, ed è Rodotà, votare per Rodotà, che la sinistra voti per Rodotà. Questa soluzione è più che legittima, Rodotà è una è una degnissima persona e che comunque è il vincitore morale di questa vicenda, perché Grillo è il vincitore invece politico di questa storia che stiamo vivendo. Naturalmente ha delle controindicazioni di tipo politico, che Grillo è il partito antisistema, è il partito che ha ordinato ai vecchi politici di uscire dal palazzo con le mani in alto. È un uomo che punta palesemente e legittimamente, dal suo punto di vista, alla destabilizzazione. Votare il suo candidato per il Partito Democratico, per quello che ne resta, significa appunto uscire con le mani in alto. Inizierebbe un'altra storia politica in cui Grillo diventa, diciamo, il padrone di tutto un arco amplissimo che va dai movimenti 5 Stelle, eccetera, ad abbracciare quello che un tempo era la platea del centro-sinistra. Un'opa sul PD sostanzialmente. Un'opa sul PD, su tutto quello che... Quindi tutto si può fare purché si sappia quali sono poi le conseguenze politiche. Detto questo, Simone, stamattina tutti voteranno scheda bianca, invece Grillo continua a votare per Stefano Rodotà. Io non mi stupirei per nulla, se i voti di Rodotà lievitassero in misura esponenziale. Già Vendola ha detto che lo voterà, quindi è possibile che si possa andare anche oltre i 300 voti. Se una parte dei voti del PD bianchi, diciamo, in virtù di questa frustrazione che sta prendendo, di questo scoramento che sta prendendo il partito, stamane si riversassero nel segreto dell'urna su Rodotà, questo te lo dico. Però il problema, la soluzione del problema passa attraverso uno di questi tre casi che ho detto. Anche che Cancellieri eventualmente. La Cancellieri è una soluzione degna, naturalmente è una soluzione istituzionale un po' debole, non c'è dubbio. Mi sembra di capire che stamattina i montiani sono incerti se votarla ancora oppure passare alla scheda bianca, quindi è una soluzione che rimane sullo sfondo, se ne parla, giustamente se ne parla perché la persona merita molto rispetto, non sono sicuro che sia quella soluzione di alto profilo che un sistema un po' allo sbando come quello che stiamo in cui siamo immersi non è forse la soluzione più adatta, perché manca il profilo internazionale, quello che aveva Giorgio Napolitano. Quindi sono due cose diverse, Simone. Il profilo internazionale riguarda una candidatura politica, cioè una personalità politica, può essere Emma Bonino, può essere Giuliano Amato, può essere Mario Monti, poteva essere ovviamente Romano Prodi. Ecco, questi sono i candidati che hanno un profilo. Massimo D'Alema stesso è un ex ministro degli esteri, ex presidente del Consiglio. Diciamo, questi sono i candidati che hanno una proiezione internazionale. La Bonino è quella che ha le caratteristiche anche più dinamiche, diciamo più trasversali. Poi la candidatura istituzionale non c'entra col piano internazionale, riguarda un'altra cosa, riguarda un sistema che non riesce a esprimere politicamente una candidatura forte e quindi si rivolge a una candidatura più neutra, quindi un uomo o una donna delle istituzioni. Quindi qui il profilo internazionale c'entra meno, ovviamente. Mentre è sul terreno politico che tu puoi scegliere una persona, uomo o donna che sia, che ci rappresenta nell'Europa di oggi. Chiudiamo qua questo appuntamento con Stefano Folli. Grazie Stefano e buona giornata. Noi torneremo tra poco e parleremo anche con dei parlamentari del tema che vogliamo toccare oggi, sempre in ambito di Quirinale naturalmente, su quanto abbiano pesato, perché molto se ne è parlato anche in queste ore, le reazioni dei social network in merito soprattutto alla candidatura di Marini. Insomma, i deputati e i senatori del PD sottoposti ad una sorta di attacco da parte dei loro stessi che gli hanno detto: ragazzi, Marini è uno da non votare. Allora magari questo ha contribuito, già di fronte ad una perplessità politica, ad affossare definitivamente la candidatura dell'ex presidente del Senato. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Eccoci alle 9:30 minuti in questa parte della trasmissione. Naturalmente, continuando a parlare di Quirinale, come si diceva, vogliamo capire anche quanto può aver pesato la pressione dei social network, di Twitter, di Facebook, nelle scelte di deputati e senatori, poi nel segreto dell'urna, insomma. raccontava un deputato del Partito Democratico, insomma, dopo la candidatura di Marini mi hanno riempito le persone con le quali normalmente ha contatti e che lo votano, mi hanno riempito di insulti. Nella prima votazione ho votato Marini per disciplina di partito, ma se mi dicono rivotalo non lo rivoto più. Quindi evidentemente qualcosa che si muove da questo lato c'è. Saluto Antonio Palmieri, che è un deputato ed è responsabile internet del PDL. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Spezia e un saluto a tutti gli ascoltatori. Stefano Quintarelli di Scelta Civica, adesso deputato, ma insomma una persona che sulla rete è discretamente nota, per così dire. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Simone. E Stefano Menichini, direttore di Europa, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, partirei proprio da qua. Palmieri ha sentito tutta l'introduzione, vorrei capire che cosa ne pensa, se i social da questo lato iniziano ad avere un ruolo anche nelle scelte che fate quotidianamente. Io non so quanto questo possa pesare davvero all'interno del PDL, però l'impressione è che nel PD qualcosa abbia giocato in questo senso. Ma guardi, io ovviamente parlo per me, per casa mia, la premessa è che internet è un formidabile strumento di ascolto e che l'ascolto è la prima forma di comunicazione. Però fatto questo, fatta questa doverosa premessa, ci sono tre considerazioni secondo me da fare, 3+1. Cioè l'ultima è questa, che una capacità di esercitare la leadership si vede anche, questo vale anche per il singolo deputato, si vede anche nel momento in cui tu sei convinto che una decisione sia quella comunque giusta o quantomeno la migliore o la meno peggio, e allora eserciti la tua leadership, grande o piccola che sia, portando a compimento quello che tu ritieni sia la cosa migliore, altrimenti si ricade nel vecchio detto, non solo il loro capo, quindi li seguo. Aggiungo un ulteriore elemento di riflessione, è chiaro che è importante quello che ci dicono le persone. Io per esempio ho segnalato al Presidente Berlusconi tempestivamente il fatto che nei commenti nei nostri spazi social 9 su 10 erano contro l'indicazione data a Marini. Chiaramente questo come strumento di ascolto, come dice prima, è molto importante perché ti aiuta, però la decisione, ripeto, è stata presa e aggiungo, le persone non hanno quella consapevolezza di tutta la complessità che c'è in gioco, che necessariamente chi è dentro la politica ha, ma aggiungo io, deve avere. E l'ultima è questa, che è uno sbaglio confondere una minoranza attiva online con la maggioranza, per così dire, silenziosa del paese, men che meno fare questo su Twitter, dove ci sono 4 milioni di italiani, di cui un quarto solamente attivo, e che ha l'unico pregio di essere non solo il mio information network preferito, ma quello preferito dai giornalisti, e quindi diventa per definizione, per alcuni di voi, non tutti, grazie al cielo, lo specchio dell'Italia. Ecco, sono su questo punto di partenza che a mio avviso si deve impostare il ragionamento. Stefano Menichini, tu come la vedi? Quanto ha pesato? Io raccontavo appunto all'inizio di questo episodio che mi è capitato, chiacchierando anche con un po' di deputati, almeno un deputato, e mi diceva: i miei submarini mi hanno fatto nero, l'ho votato alla prima, se mi dicono rivotalo alla seconda non lo voto. Ma io credo che quello che è successo in queste ultime 48 ore nel gruppo parlamentare democratico sia il convergere perverso di due fattori che invece venivano considerati da noi, cioè che noi stessi consideravamo fattori positivi, e da una parte il forte rinnovamento della rappresentanza parlamentare, il suo ringiovanimento, il fatto che fossero nuove leve della politica, e dall'altra parte il fatto che si fossero formate moltissimo e che avessero forti riferimenti e diretti collegamenti con il mondo social, oltre e forse perfino di più di quanto non abbiano con il loro effettivo territorio, quindi che fossero delle persone giovani e moderne. Ora naturalmente poi ci sono stati fattori politici importantissimi, alcuni li abbiamo capiti, altri li dovremo capire, però io partirei da questo, avendo ascoltato, come dici anche tu, molti dire nelle ore calde su Franco Marini, ma me mi stanno facendo nero su Facebook, mi stanno dicendo di tutto, io non lo posso fare, eccetera. Ho l'impressione che questo nuovo ceto politico risenta moltissimo, intanto forse di una fragilità di impianto personale, di un'autonomia di visione, eccetera. Cioè, le due cose si incrociano, Stefano, no? Si incrociano nel momento in cui le reazioni alle scelte politiche che tu prendi le verifichi in tempo reale, una cosa che un tempo non accadeva. Io mi sono ormai c'ho una certa età, e i partiti di una volta, a sinistra per esempio, facevano scelte che venivano duramente contestate dalla base, ma i tempi dell'informazione, dell'assunzione di un'opinione e della contestazione di una scelta erano tutti diversi, i luoghi erano tutti diversi, c'erano le sezioni, i circoli territoriali, e c'era un ceto politico solido che sapeva spiegare le scelte, sapeva argomentarle, sapeva spiegare la necessità del compromesso. Non dico che fossero scelte giuste, sto parlando proprio di come si formava l'opinione e la decisione politica e il comportamento. Qui invece è tutto sincopato, è tutto in tempo reale, e non c'è più, diciamo, un gruppo dirigente solido e legittimato di una volta, perché siamo in un clima di delegittimazione complessiva che attraversa anche i gruppi politici, oltre che essere fra i gruppi politici e la società, e tutto questo come dire, ha un precipitato immediato, senza la possibilità di recupero. È chiaro che questo limita in maniera terribile diciamo, i margini di manovra, e questa situazione applicata a una vicenda come l'elezione del capo dello Stato, che è per Costituzione regolata in una maniera molto particolare, perché richiede, esige invece quella capacità di manovra, di dialogo, di compromesso, la necessità di raggiungere certe maggioranze, e quindi il fatto che non puoi fare da solo, il fatto che devi incontrarti con avversari, perché devi, allora non parlo del clima politico, nel clima politico difficile questo tipo di meccanismo, che noi avevamo salutato come l'avvento di un, diciamo, di una nuova forma di democrazia, si rivela, non do giudizi, diciamo che si rivela incontrollabile per la regia politica. Questo mi fa fare poi una riflessione che magari, se vuoi, facciamo, sì, sul fatto che questa dimensione Grillo e Casaleggio l'hanno, come dire, per certi aspetti forse percepita per primi, e ci hanno costruito qualcosa sopra razionalmente. Il Partito Democratico ci si è trovato dentro, sì, inconsapevolmente. Sì, e poi si può ragionare su Grillo, perché in realtà alla fine Grillo questo tipo di contestazioni le ignora sostanzialmente, nel senso che di fatto mantiene la linea, non c'è uno spostamento di linea vero e proprio sulla base delle contestazioni, però insomma questo è anche il tema. Stefano Quintarelli, che in Parlamento ci è entrato da poco, insomma da pochissimo, da un paio di mesi, e che è appunto un esperto anche di cultura digitale. Stefano, come la vedi? Che sensazione hai tu? Beh, devo dire che è una cosa veramente molto particolare per me, perché appunto sono un novellino del mondo, e quindi devo imparare due cose, no? Devo imparare quello che era quello che è il mondo politico normale di tutte le negoziazioni, e come questo viene influenzato dalla rete, no? Sono due aspetti che si sommano per me nella mia curva di apprendimento. No, sentivo prima quello che diceva Antonio, devo dire, Antonio Palmieri, UPL, e devo dire che sono molto d'accordo con lui. Aggiungo una cosa, che è questa: che è vero che tu puoi avere un feedback in tempo reale. Il fatto o un errore che secondo me alcuni fanno è ritenere che quel feedback sia statisticamente significativo, perché è chiaro che chi è in disaccordo diventa subito immediatamente molto loquace, scrive molto e lo manifesta in modo sensibile, chi invece magari non è in disaccordo ma è favorevole si limita, no? Quindi la famosa maggioranza silenziosa. sì, adesso non so se sia, perché la maggioranza sì. è anche tutto un mondo che è al di fuori dalla rete, no? Perché comunque metà degli italiani non la usano, quindi, e anche loro sono i nostri elettori, no? Io rappresento 90.000 elettori, di questi 90.000 non so quanti sono online, quindi c'è una maggioranza non online, silenziosa per definizione, e poi una parte online che è una minoranza, e di questa una minoranza, quindi bisogna stare attenti sulla significatività. E qui vengo a quello che diceva Menichini, no? che alla fine Grillo queste cose le ignora, perché ci sono dei luoghi dove deve avvenire la discussione, magari anche online, dove si deve formare la posizione, ma poi quello deve essere mantenuto. Allora, però questa cosa qui è innegabile che abbia un effetto sulla percezione che le persone hanno, e soprattutto perché i ritmi sono molto più accelerati e quindi in effetti il dibattito, le discussioni vengono alterate da una dinamica nuova che è molto basata sulla percezione. Aggiungo un ultimo e nuovo elemento, se vogliamo, rispetto a quanto ho detto fin qui nella discussione, ed è la comunicazione intergruppo. Cioè, quando noi siamo riuniti arrivano i tweet di quello che accade nella riunione del PD, e questo cambia anche la nostra discussione, e questo accelera i tempi, li accelera, però in qualche modo anche crea un po' di turbolenza, no? Una sorta di piccolo cortocircuito, se così vogliamo. Comunque, insomma, qualcosa di molto sincopato. Ci scrive un ascoltatore, Michele Bo, sulla nostra pagina Facebook: si nota una sorta di isterismo collettivo, di isteria collettiva, insomma, che non è male come definizioni. Ci scrive invece Maria Grazia, insomma, che in realtà tutto questo non ha assolutamente influenza, i giochi si fanno altrove, compresa casa di Grillo, con buona pace degli ingenui. Antonio Palmieri, una sorta di isteria collettiva c'è forse da questo lato? C'è, che viviamo un momento che è complesso e drammatico, e questo si ripercuote dappertutto. La dico brutale, Palmieri, è incasinato il momento, e quindi è un casino anche sui social, insomma. Sono totalmente d'accordo, e dico un elemento in più, sempre di contesto, perché poi ha ragione Stefano Quintarelli, cioè, c'è tutto un mondo che è fuori dalla rete e che quindi noi non vediamo. Però su questo c'è una premessa ulteriore da fare, a mio avviso, che è questo: proprio perché è cambiato il contesto, perché stiamo comunque in un'era in cui le persone vogliono scegliere direttamente, è proprio anacronistico il rito che stiamo vivendo in questi giorni qua dentro noi. Perché se una persona oggi può votare direttamente e scegliere il sindaco di un paese di 200 abitanti, può pensare di scegliere il vincitore di un talent show, ma deve scegliere anche il Presidente della Repubblica. Cioè, è proprio questo un altro dato di fondo che, come dire, accresce l'isteria. Si somma quella fragilità di leadership, innanzitutto del singolo parlamentare, che non è confermato in se stesso, per così dire, e quindi è esposto a questa cosa. Come dicevo prima, io ho significato al Presidente Berlusconi i commenti dei nostri negativi sull'ipotesi Marini. Ma non è che ho fatto, come dire, il sismografo quantitativo, io vado sempre a pescare i commenti che ci danno un contributo di pensiero e di qualità. Allora, lì sì che in qualche modo dall'intelligenza collettiva tu ne ricavi un vantaggio che ti aiuta a fare meglio il tuo lavoro di parlamentare. Se ti limiti a registrare come un sismografo che c'è appunto l'isteria, che c'è la pressione, che ci sono i vaffa, eccetera, eccetera, non vai da nessuna parte, ma aggiungo, tradisci il tuo mandato, perché noi siamo qui, scelti, bene e male, comunque per un ruolo di guida. Allora non è che io posso, come dire, andare a traino di quelli che invece dovrei guidare senza pormi su un piedistallo, ma semplicemente ponendomi a servizio. Chiarissimo, mi sembra un bel ragionamento. Ci scrive Piero Dominici, mi scrive su Twitter: i social network ridefiniscono i confini della sfera pubblica, disintermediazione, ma la vera pressione arriva dalla copertura mediatica, e anche questa giustamente è una lettura. Per tornare invece alla politica al di fuori dei social, Stefano Menichini, come finisce nel PD? Sei in grado di fare una previsione, o, come abbiamo sentito Stefano Folli poco fa, dice: guarda, in questo momento la situazione è talmente confusa che non si riesce a far previsioni? Ma il PD ha deposto le armi rispetto alla partita del Quirinale, non ha perso il diritto, il titolo a esprimere i propri candidati, ammesso che ce ne fossero che ce ne fosse qualcuno che si rendesse disponibile, e credo che in queste ore si stia procedendo a una discussione giustamente finalmente coperta con le altre forze politiche per verificare da loro quali tipi di personalità vengono indicate per una soluzione che verosimilmente sarà, adesso per dire un nome che è un nome già di per sé sicuramente valido, ma che funzioni come parametro, come quello del ministro Cancellieri, che ha ricevuto ieri voti di Scelta Civica e che insomma rappresenta una possibile opzione. È precipitato tutto nel Partito Democratico, c'è un mix nella valutazione di quello che è accaduto tra sospetti su aree politiche antiche, interne, e appunto invece una valutazione che io ho ascoltato anche da, per esempio, da dirigenti del gruppo proprio di Bersani, di sconcerto rispetto alla scarsa capacità di tenuta dei parlamentari, anche dei parlamentari giovani, dei neoeletti, e questo c'entra molto col discorso che avevamo fatto fino adesso. Si aprirà una fase di ricostruzione le cui coordinate francamente io non saprei definire adesso. Per quanto riguarda la vicenda della Presidenza della Repubblica, ripeto, c'è la speranza di chiuderla entro questa sera, entro il sesto scrutinio, però in qualche maniera si rimette alla saggezza, alla tenuta e alla solidità degli altri. Saluto proprio Antonio Misiani del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Antonio Misiani, immagino che anche voi stessi stiate cercando di capire che cosa è successo. Pensa che i giovani del partito siano stati inadeguati in questa occasione, non abbiano tenuto abbastanza, non abbiano avuto abbastanza tenuta psicologica, perché anche di questo abbiamo parlato prima che lei intervenisse in diretta. Ma guardi, io ho partecipato all'elezione del Presidente della Repubblica anche nel 2006 e devo dire che nel 2013 il contesto è profondamente diverso. C'è innanzitutto un vuoto di potere, non c'è un governo pienamente in carica. Sull'elezione del Presidente della Repubblica si sono scaricate le aspettative di milioni e milioni di italiani. La pressione, l'attenzione, le sollecitazioni che sono presenti in questi giorni, io non le avevo registrate neanche lontanamente 7 anni fa. Il paese stesso che è cambiato, c'è una domanda di partecipazione che è completamente diversa, e questo indubbiamente esercita una pressione sui parlamentari che non era minimamente riscontrabile nelle passate elezioni. Poi non so dire se i parlamentari giovani, quelli meno giovani, come si siano rapportati nei confronti di questa pressione popolare. Sicuramente questo è un fattore che ha inciso, non è l'unico però, perché bisogna andare molto più a fondo. Anche un'assenza di linea chiara, diciamo così, no? Ma guardi, tenere una linea in un Parlamento che per la prima volta nella storia della Repubblica ha un assetto tripolare era oggettivamente molto complicato in partenza. Poi sicuramente le opzioni che sono state messe in campo in questi giorni erano tarate su schemi alternativi, perché la proposta di Marini era una proposta che nasceva anche dal dettato costituzionale di ricercare una larga convergenza in Parlamento. La proposta di Prodi era invece una proposta di ricompattamento del fronte del centro-sinistra, quindi oggettivamente diversa come ispirazione rispetto a quella precedente. Hanno avuto tutte e due i risultati che conosciamo. Questo indubbiamente aperto un problema enorme, innanzitutto nel campo del centro-sinistra. C'è gente, per esempio Sandro Gozi, come andato che piuttosto vicino a Prodi, che ha parlato di questi 100 come delinquenti politici addirittura. Non so se lei condivide, e soprattutto ci spiega chi li ha mandati questi 100, perché qua ci si continua a rimpallare responsabilità. Ma guardi, io non sto a fare l'identikit né a ricercare i mandanti o i colpevoli. Di sicuro c'è stato un elemento particolarmente sgradevole nella giornata di ieri. La mattina un'assemblea in cui il segretario ha fatto il nome di Romano Prodi, quell'assemblea di grandi elettori si è alzati in piedi con una standing ovation per applaudire quel nome, e poi nella votazione un elettore su quattro del Partito Democratico ha fatto una scelta diversa. Non so se si possono chiamare delinquenti, ma sicuramente è una mancata assunzione di responsabilità estremamente sgradevole. Se non si è d'accordo ci si alza in piedi, si interviene e lo si motiva di fronte agli altri grandi elettori, come dovrebbe avvenire in una forza politica che non è certo ispirata al centralismo democratico, che a partire da un'altra stagione. Noi siamo un partito plurale, con tante, fin troppe posizioni interne, però non si gestisce la dialettica alzandosi in piedi alla mattina e votando contro la proposta del segretario il pomeriggio. Ultimo giro di domande, partendo proprio da lei e anche con gli altri nostri ospiti, brevissimo. Cancellieri è un nome votabile adesso, al di là di quello che deciderà il gruppo, naturalmente lo deciderete tutti insieme, poi bisogna vedere una volta che avrete deciso, insomma, come andranno i voti, perché a questo punto non ci si fida più di nessuno. Però guardi, adesso noi votiamo scheda bianca. Io credo che sia necessaria un minimo di riflessione. I nomi che sono stati fatti in questi giorni, di per sé, per quello che rappresentano, sono tutte persone degne e meritevoli di rispetto. Il punto è capire i 504 voti di grandi elettori indispensabili per eleggere il Presidente come vengono. Brevemente, D'Alema ancora qualche chance? Non mi risulta che il Presidente D'Alema sia in campo in queste ore. Antonio Palmieri, che cosa farete oggi? Guardi, è in corso questo momento riunione del gruppo, io essendo con voi ho marinato la riunione pur di stare in vostra compagnia e in quella degli ascoltatori, quindi non glielo so dire, presumo che anche noi in questa quinta votazione seguiremo tra virgolette l'esempio del PD. Cancellieri comunque ampiamente votabile, no? Cancellieri è ampiamente votabile, ci sono molte persone ampiamente votabili. Mi permetto solo di dire una frase: io sono veramente preoccupato per quello che sta avendo il PD, non lo dico polemicamente, lo dico realmente, perché c'è bisogno di un forte partito della sinistra, perché questo sta bloccando tutto questo paese, e lei stesso stamattina twittava il dato del numero di impressionanti di imprese che hanno chiuso in queste settimane, per cui per far ripartire tutto, governo o in nuove elezioni, o che il paese, c'è bisogno di un PD che ci sia. Quintarelli, voi andrete avanti su Cancellieri anche oggi o fate scheda bianca anche voi in attesa di un accordo? Allora, anch'io mi sono uscito dalla riunione del gruppo, però non voglio eludere la domanda. Questa è una situazione proprio classica da teoria dei giochi, dove lo scambio di informazioni altera il risultato, no? Allora, che è la ragione per cui, ad esempio, nella votazione di ieri, di ieri mattina, il gruppo di Scelta Civica ha deciso di non, ha detto che avrebbe votato in futuro Cancellieri. Abbiamo un minuto, No, ma chiuso. Ha detto che l'avrebbe votato, ma che non l'ha fatto nella cosa, appunto per proteggerla, perché altrimenti la schiera da una parte e dall'altra. Questo è un messaggio difficile da far capire, però grazie ai social network, ad alcune persone che si riferivano a una Scelta Civica in modo critico, questa cosa è passata, quindi il canale di comunicazione va usato anche in modo bilaterale per stabilire il dialogo, non solo per ascoltare e non solo per ricavare indicazioni statistiche che statistiche non sono. Va bene, super politico, è diventato un super politico Stefano Quintarelli, micidiale. Chiudiamo qua questa puntata di Voto Antonio, grazie a Antonio Palmieri, Stefano Quintarelli, Stefano Menichini, Antonio Misiani, se volete mi potete scrivere anche su questi temi su Twitter, un ringraziamento a... ecco. Gli amici se ne vanno. La canzone con la quale abbiamo aperto, chiudiamo, grazie a Carmelo Lauricella che me l'ha rimessa di sottofondo, grazie a Benedetta Acri in assistenza, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona giornata. Italia!